Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17:09. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Vi trasmettiamo in diretta, come sentirete anche da qualche rumore di sottofondo, dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Una puntata nella quale inizieremo affrontando il tema della Grecia. Come sapete c'è stata da una parte, dal Fondo Monetario Internazionale questa mattina, da una parte una rassicurazione, perché il Fondo Monetario ha detto non c'è bisogno di una ristrutturazione del debito, e dall'altra parte però c'è stato un segnale negativo, perché il Fondo Monetario dice ci sono rischi di contagio, quindi dichiarazioni a due facce. Vedremo di fare il punto, di capire che cosa vuol dire effettivamente quando si parla di ristrutturazione del debito e che cosa questo può comportare, tenendo presente che i tassi di interesse sul debito greco continuano a crescere, siamo intorno al 25 o qualcosa in più, poi più tardi vi daremo il dato preciso, per cento, insomma un debito oggettivamente difficile da ripagare. Vedremo di capire questo che cosa può rappresentare. Toccheremo naturalmente il tema dei mercati, come sempre. Vi dico subito che la giornata oggi è stata di nuovo negativa, un meno 1,22% sul FTSE All Share, un meno 1,38 sul FTSE MIB. In questo momento se la cavano in pochi, in pregiro su tutti, che guadagna il 2,87, Campari il 2,22, Fondiaria Sai l'1,97, Tots l'1,5, la Popolare di Milano un punto percentuale, il Monte dei Paschi a 2 in leggero rialzo, tutti gli altri sono in negativo. Giornata negativa anche nel resto d'Europa, mentre New York cede lo 0,41% sul Dow Jones e lo 0,33% sul Nasdaq, euro che quota 1,4203 contro dollaro. Vedremo se avremo lo spazio, se riusciremo a trovare l'ospite. Dovremmo avere un qualche chiarimento sulla vicenda di Cagliari, ve l'abbiamo raccontato anche nei nostri giornali radio, e poi domani mattina ci tornerà Deborah Rosciani in 9 in punto. Ci sono migliaia, letteralmente migliaia di persone che sono scese in piazza contro Equitalia. Cercheremo di capire qualcosa di più su questa protesta e, se ci avanza tempo, toccheremo anche il tema del petrolio e iniziamo proprio dalle notizie in breve e dalle materie prime. Perché ancora oggi il petrolio ha fatto segnare un calo, siamo ampiamente sotto i 100 dollari al barile, a 96,51 l'apertura a New York, meno 1,7%. Diverso l'andamento dell'oro, anche se si mantiene sostanzialmente a ridosso di quota, 1.500 dollari l'oncia, 1.504 per l'esattezza, il rialzo dello 0,3%. Alcune notizie dagli Stati Uniti, iniziando dai dati sui sussidi di disoccupazione, arrivati oggi le domande settimanali di sussidio di disoccupazione indicano un calo di 44.000 unità a 434.000, gli economisti si attendevano un calo lievemente maggiore e vanno abbastanza bene le vendite al dettaglio. Come sapete, questo è un elemento particolarmente importante per gli Stati Uniti, dove circa tre quarti del prodotto interno lordo sono fatti dai consumi. Insomma, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti ad aprile hanno segnato un rialzo mensile di mezzo punto percentuale dopo lo 0,9% del mese precedente, quindi di marzo, ed è il decimo rialzo consecutivo. Veniamo all'Europa. Il Fondo Monetario Internazionale oggi, oltre ad essere presente alla missione in Grecia, ha anche redatto e diffuso il suo rapporto dedicato all'Europa. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo, dice il fondo, sarà dell'1,6% nel 2011 e dell'1,8% nel 2012. Il Fondo Monetario dà anche indicazione alla Banca Centrale Europea, dice che ha margine per mantenere una politica monetaria relativamente accomodante. Per quanto riguarda la BCE, La BCE stessa dice che la politica monetaria per l'area euro appunto resta accomodante. Il Consiglio direttivo continuerà a seguire con molta attenzione tutti gli sviluppi relativi ai rischi al rialzo per la stabilità dei prezzi, come sapete proprio sull'inflazione che si basa Francoforte per valutare come muoversi sui tassi, insomma è uno dei parametri principali, il principale in realtà stando allo statuto. Tra l'altro di Banca Centrale Europea torneremo a parlare e vedremo di farci spiegare da Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, come mai è arrivata questa svolta tedesca sul nome di Draghi alla presidenza della BCE. Intanto la BCE in un sondaggio tra 55 professional forecasters, ossia previsori economici, ha alzato la stima di inflazione del 2011 ad un 2,5%. Da dire su Draghi che ci sono le parole del presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker, dice sì, è favorito, ma non sono esclusi altri nomi. Restiamo in Europa e veniamo al primo tema della giornata, ossia la Grecia. (349) 238 6666 il numero per intervenire in diretta. Adesso vi diamo il dato preciso: i rendimenti dei titoli di Stato greci per i titoli biennali hanno raggiunto questa mattina il 26,7%, sostanzialmente impossibile da ripagare. L'interesse sul decennale è salito al 15,6%. Secondo gli analisti di Credit Suisse, una ristrutturazione del debito greco è inevitabile e gli esperti di Barclays hanno detto di ritenere probabile una ristrutturazione nella prima metà del 2012. Saluto Walter Riolfi del Sole 24 Ore, che dovrebbe essere in collegamento con noi dai nostri studi di Milano. Walter, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, cerchiamo di fare un po' di chiarezza ed iniziare a spiegare anche ai nostri ascoltatori tecnicamente che cosa vuol dire una ristrutturazione del debito. Beh, è semplicissimo, vuol dire che la Grecia non ce la fa, non paga tutto il debito che ha emesso. Ne rimborsa una parte, 30%, 40%, 50%. E questo qui però è una condizione che è già stimata dal mercato. Se noi andiamo a vedere i prezzi dei titoli di Stato greci, troviamo che i trentennali quotano su 46-47 centesimi, quindi 46-47 su 100. I decennali quotano più o meno sul 52-53 su 100, quindi il mercato già stima una probabile ristrutturazione del debito, detta anche default, eccetera, però in realtà è una ristrutturazione pari a un 50%. Questo vuol dire, Walter, in sostanza, che chi ha in mano delle obbligazioni greche valgono la metà? Valgono la metà, dipende, se le ha comprate a 100 se le trova la metà, se le ha comprate a 50 come alcuni grossi investitori stanno facendo nelle ultime settimane, roba del genere, potrebbero anche guadagnarci, perché supponiamo che facciano la ristrutturazione al 40%, cioè non rimborsino il 40%, quindi implicitamente il titolo varrebbe 60, se l'ha comprato a 52 che sono i prezzi di oggi potrebbe anche guadagnarci, fare una plusvalenza oltre alla ricchissima cedola di questi titoli, perché a quei prezzi lì i rendimenti sono elevatissimi, sono all'ordine del 14-15%, oppure tu hai appena ripetuto che quelli a breve sono addirittura ben oltre il 20%, no? Tra l'altro ci sono dei motivi precisi per cui questa ristrutturazione del debito greco sembra inevitabile, perché innanzitutto perché il debito greco vale il 160% del prodotto interno lordo. lordo. Allora, di fatto la Grecia, per restare sopra la linea di galleggiamento, dovrebbe avere i rendimenti dei titoli a lungo termine a circa il 6%, e come ci hai detto tu, Walter, sono intorno al 16%. Una crescita del PIL del 4% annuo, che al momento appare, se non impossibile, molto molto difficile, e un surplus di bilancio del 3,2%, cioè una sostanzialmente irrealizzabile, no? Ecco, sì, non ce la farà mai a ripagarlo. In ogni caso la Grecia non paga un 13, 14, 15% in caso di negegli aiuti che vengono dati dalla Comunità Europea o dal Fondo Europeo, perché i rendimenti in questo caso sono stati abbassati e sono attorno al 6% o forse anche leggermente meno del 6%, altrimenti se dovesse rimborsare al tasso che esprimono i suoi titoli di Stato, la Grecia sarebbe fallita proprio tout court, senza possibilità di rimedio. Ma il problema è che la Grecia rischia di ristrutturare, quindi rischia un parziale fallimento del suo debito anche in questo modo qui, perché non ce la farà mai a ripagare il proprio debito alla Comunità Europea. La Grecia continuerà a emettere titoli di Stato che verranno continuamente sottoscritti dalla Comunità Europea, dal fondo della Comunità Europea, in un sistema che alcuni osservatori hanno descritto come una specie di schema Ponzi, cioè nel senso che addirittura uno schema Ponzi a livello istituzionale, però fatto dal pubblico, e no, quindi scusami Walter, ti interrompo. Lo schema Ponzi, per intenderci, è quello che è stato reso celebre negli ultimi anni da Madoff, da un grande truffatore. Come Madoff in realtà fu di un'invenzione di un italo americano, addirittura di un italiano se non sbaglio, negli Stati Uniti, e che prevede appunto di ripagare i vecchi investitori con i soldi freschi che arrivano nuovi, da quelli nuovi. Sì. Ecco, in questo caso diciamo che non c'è la truffa, perché è una cosa regolare, ma l'unico sottoscrittore dal debito pubblico finisce per essere questo fondo europeo, no? Ma il problema è che con questo enorme debito sulle spalle, la Grecia, l'economia greca è al tracollo, l'inflazione è al 16%, il dato che è stato comunicato quest'oggi, no? E l'economia è sotto zero, la crescita è negativa, non si vede come la Grecia possa ripagare, no? E qui si rischia una rivolta sociale, no? Già i cittadini greci non sembrano molto propensi a subire ulteriori tagli. Se ci si mette dal loro punto di vista, la situazione diventa davvero pesante per un'economia che ristagna, un'economia che non ce la fa a riemergere, no? Quindi la ristrutturazione, come scriveva tra l'altro sul Sole 24 Ore ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, Martin Wolf, la ristrutturazione del debito greco è una cosa inevitabile, e per i mercati sarebbe una soluzione addirittura più soddisfacente che non l'altra, no? Perché almeno si elimina il problema. L'altro problema è che la Comunità Europea continua a dare messaggi rassicuranti. Il Fondo Monetario dice no, la Grecia non ha bisogno di ristrutturazione. Poi in realtà Walter, a parte che insomma, c'è qualche SMS a partire da quello di Giorgio che ci scrive al 349-238-6666. Mi raccomando, fate passare il messaggio che sono un buon investimento. Non è assolutamente il messaggio che stiamo facendo passare. No, assolutamente. Anzi, decisamente direi che è l'esatto contrario. Ecco, da questo lato stamattina, Walter, sono arrivati due segnali piuttosto contraddittori, devo dir la verità, dal Fondo Monetario Internazionale, perché insomma si dice da una parte che di questa ristrutturazione non c'è bisogno, dall'altra parte si dice resta un rischio di contagio della crisi del debito. Quello che voglio chiedere a te, che spesso ti occupi di mercati e hai il polso dei mercati, è su cosa i mercati stanno scommettendo in questo momento, oltre che naturalmente la ristrutturazione greca che danno per scontata. Sì, il rischio contagio sì, può esserci, però visto che i mercati ritengono la soluzione del default parziale, quindi della ristrutturazione come inevitabile e addirittura a questo punto auspicabile, e auspicabile fosse per gli stessi cittadini greci, il rischio contagio al Portogallo o all'Irlanda non è così necessario, no? Ma Ren questa mattina dice che la ristrutturazione avrebbe conseguenze devastanti per la Grecia e per i paesi della comunità europea. Fosse devastante per la Grecia non lo so, perché forse per l'economia sarebbe un aiuto. Per il resto dell'Europa in un certo senso sì, ma si può capire perché i paesi core, cioè Francia, Germania, dell'Europa siano così preoccupati, perché basta guardare dove sono finiti i titoli di Stato greci. Certo. I titoli di Stato greci. In quali tasche sono? Sono questo 19% in mano alle istituzioni finanziarie, soprattutto banche tedesche, 9% la Francia. Se guardiamo l'Italia, ha solo il 2% del debito greco. La stessa cosa è per Irlanda e Portogallo. Siamo Irlanda, per esempio, la Germania ha il 33% del debito greco. L'Italia l'1%. E così anche per quello portoghese. Quindi il problema irlandese volevi dire, sì, sì, hai detto greco, volevi irlandese. Il problema è a questo punto che bisogna evitare la ristrutturazione, perché rischierebbero di saltare le banche tedesche o francesi, o comunque i governi francesi e tedeschi sarebbero costretti a intervenire per ripianare le perdite del loro sistema bancario, specialmente in Germania, dove sono le banche regionali che si sono riempite di titoli greci, ma non a 50 centesimi come adesso, sono riempite più o meno quando valevano 95 o oltre, quindi 2 anni fa, no? Allora, mi sembra, Walter Jolfi, che abbiamo messo un punto fermo, che è questo. Perché i paesi europei sono tanto preoccupati dalla possibilità di una ristrutturazione e perché ci sono tante dichiarazioni da parte degli esponenti europei che dicono no, la ristrutturazione sarebbe un disastro, perché molti titoli greci sono nelle tasche di banche tedesche e francesi prevalentemente. Ora, ti chiedo a questo punto che idea ti sei fatto dell'impatto che può avere un'eventuale ristrutturazione del debito greco su questi paesi e su queste banche. Insomma, voglio dire, è così tragica come la vede Ren o come la vede Juncker? Non lo so, ma le banche tedesche, essendo soprattutto banche regionali che hanno già problemi di sottocapitalizzazione relativa rispetto alle grandi banche, io penso che alcune di queste rischiano effettivamente di saltare, no? E quindi deve intervenire il sistema bancario tedesco e lo Stato e il tesoro tedesco a salvarle. E quindi forse costa meno, mettiamoci nell'ottica della Francia o della Germania, cercare di costruire un fondo che aiuti perpetuamente la Grecia che non mettere soldi per salvare il proprio sistema bancario o parte del proprio sistema bancario. Ci chiedono, Walter, non so se tu lo sai, se la BCE sta ancora accettando titoli greci. Sì, a me risulta di sì. Benissimo, benissimo, insomma, si fa per dire, perché sta incamerando titoli assai problematici, quindi, e questo è un altro aspetto del problema. Certo, sì, li usa anche come collaterale, quindi per avere finanziamenti. Sì, poi naturalmente ci chiedete, c'è l'altro tema che è uscito molto negli ultimi giorni, ossia l'idea che la Grecia debba uscire dall'euro. C'è chi come Salvatore da Pordenone ce la mette dal lato politico, ossia la Grecia deve uscire dall'euro altrimenti passa il dato di fatto che qualcuno paga come la Germania e altri vivono da parassiti. C'è chi invece che la mette giù dal punto di vista economico, come Carolina che ci scrive: la ristrutturazione passa per forza dalla svalutazione, la Grecia dovrà uscire momentaneamente dalla moneta unica. Da questo lato la percezione del mercato qual è, quest'idea che la Grecia possa uscire dall'euro? Ecco, su questo non lo so, anche perché non ci sono, secondo me non hanno fatto ancora studi, adesso non so esattamente se è possibile tecnicamente uscire dall'euro, so che alcuni commentatori, alcuni analisti dicono che potrebbe uscire, anche se ci sono problemi grossi perché dovreste adottare un'altra valuta. Però preferisco non avventurarmi in questa ipotesi. Ci chiedete se dovrà ristrutturare anche l'Italia, che crediamo, visti i rendimenti, francamente di no. Tra l'altro oggi ha parlato il presidente di Assogestioni, Domenico Siniscalco, che dice, visto il livello dei grandi risparmiatori che abbiamo in Italia, visto il fatto che siamo dei grandi risparmiatori, ha consentito al nostro paese di mantenere a distanza di sicurezza gli spettri del default sul debito sovrano. Ha parzialmente ragione chi scrive, quando diciamo che la BCE si sta incamerando dei titoli greci, si continua a salvare le banche per i loro errori pagando con i nostri soldi di questi tempi, in questo caso naturalmente non stiamo parlando delle banche italiane, ma in particolare di quelle tedesche o francesi. Adesso ci prendiamo una breve pausa. Io saluto Walter Riolfi del Sole 24 Ore per essere stato con noi e per averci aiutato a capire la situazione e a sviscerarla un po' meglio. Grazie Walter, buonasera. Grazie a voi, arrivederci. Allora, una pausa e ci ritroviamo subito dopo. Naturalmente parleremo dei mercati. Le 16:36, gentili ascoltatori, di nuovo buonasera da Simone Spezia, vi trasmettiamo in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Ancora sul tema della Grecia, vediamo parecchi sms, ci scrive Andrea per esempio, anche le banche devono rimetterci come i comuni risparmiatori, visto che sono banche private. Allora, in tutta teoria, Andrea, lei avrebbe pure ragione, però se saltano le banche salta tutto, soprattutto quando ci sono questioni così a livello di sistema, esattamente il motivo per il quale al momento della crisi subprime si è deciso di salvare una serie di banche. E poi naturalmente molti messaggi sul rischio di perdita di credibilità della BCE e dell'Unione Europea in caso salti il banco in Grecia. È il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Brutta giornata, eh? Sì, infatti sin dalle prime battute di questa mattina gli indici hanno imboccato la strada del ribasso e poi per tutta la seduta hanno perso colpi, anche se va detto che sul finale hanno chiuso sopra i minimi toccati durante la giornata. Hanno chiuso sopra i minimi, comunque il calo è sopra il punto percentuale per praticamente tutti gli indici, FTSE MIB meno 1,11%, FTSE All Share un punto percentuale di calo o poco meno, uno 0,97% di calo, male anche il resto d'Europa, ha recuperato qualcosa Wall Street, meno 0,17%. Partiamo dai titoli migliori di questa giornata, tra l'altro è stata una giornata fitta di trimestrali, e inizierei da Impregilo, un più 3,13%, oggi è il titolo migliore sul FTSE MIB. Esatto, Impregilo in verità ha allungato il passo nel primo pomeriggio, grazie alla notizia che il Tribunale del Riesame di Napoli in sede di appello ha respinto una nuova azione cautelare che era stata presentata dai pubblici ministeri della Procura di Napoli sul dossier del riciclo dei rifiuti, altrimenti la società avrebbe dovuto versare, che sarebbero stati quindi sequestrati, ben 245 milioni di euro, quindi assolutamente una buona notizia che ha messo le ali alle azioni, che hanno nel corso della seduta guadagnato ben oltre il 3% e poi hanno chiuso con questo progresso del 3,13%, attestandosi a 2,37 euro. Allora, bene nella giornata di oggi anche Fondiaria Assai, un più 2,63%, ci sono ragioni particolari? Sì, i titoli si sono risvegliati soprattutto sul finale, c'è grande attesa per il verdetto della Consob, poi questo sabato si riuniranno i consigli di amministrazione della compagnia e anche delle altre società della Galassia Ligresti, ovviamente sempre che il verdetto della Consob relativamente all'aumento di capitale, al fatto che ci sia un'esenzione all'OPA, l'Europa risulti favorevole, partiranno tutte le operazioni sul capitale, che ricordiamo comporteranno anche l'ingresso di Unicredit nell'azionariato della compagnia assicurativa. E veniamo finalmente alle trimestrali, quella di Campari e quella di Tod's hanno fatto bene i due titoli in borsa, più 2,42% e più 1,63% rispettivamente. Sì, esatto, soprattutto Tod's va segnalato che anche oggi ha segnato nuovi massimi storici, le azioni sono acquistate da più giorni e nei giorni scorsi hanno beneficiato dei conti tutti in progresso delle società del lusso. Ieri era stata ad esempio Hermès, il giorno precedente Bulgari, che avevano vantato tutti conti in forte rialzo. Oggi la stessa Tod's ha vantato ricavi in progresso di oltre il 17%, un EBITDA in miglioramento del 33%, non solo, ma il patron Diego Della Valle ha fatto intendere che i conti saranno buoni anche a fine anno, visto che gli ordini per il prossimo autunno e inverno stanno andando bene. Come si diceva prima, come si diceva in apertura, positiva la Popolare di Milano che guadagna l'1,16, il Monte dei Paschi che guadagna lo 0,38, invece sembra essere una giornata a due facce per i bancari, Intesa San Paolo lascia sul terreno l'1,77%, il Banco Popolare l'1,65%, non sembrano dunque le banche essere stato un tema dominante di questa giornata, no? No, infatti le banche hanno registrato un andamento contrastato. Intesa San Paolo, domani ci sarà la conference call sui conti trimestrali. BPM invece oggi si è riunito il consiglio di amministrazione, a breve dovrebbero uscire i conti del primo trimestre, che appunto sono stati approvati dal board, che inoltre ha fissato anche la data per l'assemblea straordinaria che sarà chiamata a approvare l'aumento di capitale fino a 1,2 miliardi varato nelle scorse settimane. Allora, Eleonora, una domanda su Parmalat, perché ci sta sempre in questo periodo, un più 0,15%, oggi tra l'altro doveva esserci un consiglio di amministrazione, no? Sì, oggi c'è stato il consiglio di amministrazione della società, in verità i membri del consiglio, almeno uscendo, hanno detto che è stato affrontato solo il tema dei conti trimestrali che usciranno appunto a borsa chiusa. I titoli hanno guadagnato, come hai notato tu, lo 0,15%, ma soprattutto continuano a stare sopra il prezzo dell'OPA lanciata dall'Actalis. Hanno chiuso infatti a 2,64 euro contro i 2,6 euro. Sì, il mercato sembra scommettere, l'Actalis sarà costretta ad alzare il prezzo. Sì, esatto. Questa sera comunque, almeno secondo indiscrezioni riferite anche dal Sole 24 Ore, potrebbe arrivare il verdetto della Consob sul prospetto informativo della società francese, e dopodiché appunto anche il board di Parmalat si pronuncerà una volta appunto avuti i documenti. Ma sempre da indiscrezioni è possibile che gli advisor della società puntino a dichiarare come prezzo giusto, prezzo fair per l'OPA, un valore più elevato di 2,8 euro, che è lo stesso valore che è stato pagato dall'Actalis ai fondi per rilevare appunto le quote attorno al 15% possedute dai fondi. Tra l'altro abbiamo, è notizia di oggi, che anche la banca d'affari Lazard, dopo l'operazione di ieri della quale vi abbiamo raccontato anche in Focus Economia, dopo l'evoluzione dell'inchiesta della quale vi abbiamo raccontato anche in Focus Economia, anche la banca d'affari Lazard è indagata nell'ambito dell'inchiesta del PM di Milano Eugenio Fusco, proprio in relazione alla scalata di Parmalat da parte di Lactalis. Ti porterei sui titoli in negativo. Ti porterei sui titoli in negativo sperando che siamo assistiti dai microfoni, un'interferenza aliena, partendo da Prismian, meno 2,64%. Sì, anche in questo caso è stato l'effetto trimestrale, la trimestrale però non è in questo caso piaciuta al mercato. Comunque la società ha registrato un utile rettificato in modo da tener conto dell'operazione che Prismian ha fatto per conquistare l'olandese Draka e anche dell'andamento delle materie prime. La società ha registrato un utile di 36 milioni in crescita rispetto a 31 milioni. Evidentemente il mercato si aspettava qualcosa di più e così i titoli sono calati del 2,6%. Allora, altri titoli sui quali andiamo oggi, anche perché è stata una giornata senza un tema preciso, mi sembra di capire, ma abbastanza strana, riguarda Fiat, che è l'altro titolo peggiore del listino sul FTSE MIB, un meno 2,39%, qua c'è la questione della joint venture con Peugeot che ha pesato evidentemente. Sì. Infatti, ma d'altra parte, come hai detto tu, non è una giornata con un tema particolare, ovvero il tema è prendere profitto e si va a prendere profitto sui titoli che hanno corso di più. Nel corso dell'ultimo mese le Fiat hanno guadagnato per terreno, si attestavano sotto i 6 euro, sono salite sopra i 7 euro, quindi la notizia di oggi è stata anche un pretesto per portare a casa i guadagni dell'ultimo mese. Comunque oggi è emerso che la joint venture con Peugeot, che tra l'altro era nata ben 30 anni fa, nel 2017 non verrà rinnovata, quindi terminerà. La joint venture Sevel Nord, invece, per quanto riguarda la joint venture Sevel Sud, sarà portata avanti fino al 2019. Sì. Però il mercato evidentemente ha valutato più la prima notizia. Grazie ad Eleonora Micheli di Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Sera. Noi diamo la linea alla viabilità, ci ritroviamo subito dopo, così vi do anche l'andamento degli altri titoli e poi parleremo di energia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, in diretta al Salone Internazionale del Libro di Torino. Sono arrivate nel frattempo le trimestrali di Parmalat e di Enel, ve ne do qualche accenno. Parmalat più 3,1% l'utile netto nel primo trimestre, a 50 milioni, ricavi in crescita dell'8,9%. Per quanto riguarda Enel, più 14,4% l'utile netto ad 1,2 miliardi per tutto il gruppo nel primo trimestre. Vi avevo promesso il resto del quadro di mercato, dei bancari vi abbiamo detto, giù Mediaset dell'1,70, Exor, la controllante di Fiat di fatto altrettanto, giù Saipem e Banco Popolare dell'1,65, Telecom Italia e Luxottica e Lottomatica dell'1,5%, Fiat Industrial di poco meno dell'1,46, Generali dell'1,4, Enel ed Eni dell'1,3, dell'1,2 Terna e Ansaldo di un punto percentuale, Snam Rete Gas dello 0,97, Enel Green Power e Atlantia giù, Mediobanca dello 0,71, di mezzo punto percentuale ST Microelectronics e Mediolanum, Finmeccanica dello 0,4, dello 0,36 Unicredit, Tenaris e Azimut. A2A dello 0,25, il resto sono cali frazionali come quelli di Buzzi Unice meno 0,19, Diasoni meno 0,14, UB Banca meno 0,08, Pirelli meno 0,07. Chiudiamo questa pagina di mercati con la quotazione dell'euro a 1,4244 contro dollaro e adesso parliamo di energia. Abbiamo parlato parecchio e vi stiamo parlando parecchio, fin quasi alla noia, se non fosse una vicenda finanziaria interessante, dell'OPA di Lactalis su Parmalat, dei francesi in Italia, e adesso parliamo proprio con un'azienda francese, in realtà dei suoi piani di sviluppo per l'Italia, in questo caso non di acquisizione. Allora, oggi il gruppo Gaz de France Suez ha illustrato i suoi piani strategici del gruppo in Italia. Saluto Aldo Chiarini, che ne è l'amministratore delegato per quanto riguarda la parte italiana, naturalmente. Buonasera, ingegner Chiarini. Buonasera a lei. Allora, il vostro gruppo nel suo complesso ha una capacità installata di 113 gigawatt, per quanto riguarda l'Italia 5,5? 5,5 è la nostra capacità di produzione consolidata in Italia. Sì, avete 1,5 milioni di clienti, 1,2 milioni. 1,200,000. 1,200,000 clienti. Allora, avete intenzioni di espansione piuttosto forte perché, come dire, da qualche tempo avete le mani libere, no? Beh, più che le mani libere. libere, il gruppo nostro esiste da tanto tempo, colgo l'occasione per dirle che ci chiamiamo GDF Suez più che sì. Gas de France Suez, anche se naturalmente veniamo da lì. Sì, abbiamo lavorato molto tempo in joint venture in Italia con Acea, che è la multi utility del comune di Roma. Abbiamo recentemente sciolto la joint venture e quindi abbiamo presentato il nostro marchio sul mercato italiano, dove opereremo direttamente. Quindi opererete direttamente col vostro marchio. È mirata, da quel che ho capito, a un raddoppio dei clienti entro il 2015. In che modo? Sì, beh, abbiamo diversi canali di vendita, abbiamo le agenzie di vendita, abbiamo il web, abbiamo delle partnership con diversi operatori, ne cito una, quella con i supermercati Auchan, dove si può trovare i nostri prodotti, dove possono essere trovati i nostri prodotti, dove possono essere non si faccia pubblicità, per carità, no, ci spieghi solamente come, perché quello che voglio capire è se avete intenzione di fare acquisizioni oppure no, o è semplicemente noi miriamo a una crescita organica e quindi attraverso la creazione di valore che noi stessi siamo in grado di fare. Poi se avremo l'occasione, se faremo anche qualche acquisizione per bilanciare meglio la nostra crescita. Quindi non escludete acquisizioni. Voi tra l'altro rimanete in rapporti con Acea e tra l'altro siete anche nel loro azionariato, avete l'11% se non sbaglio, no? Sì, forse l'11,5%. L'11,5% siete saliti recentemente. Quindi da questo punto volete partire, tra l'altro il vostro obiettivo... No, siamo saliti recentemente, le informazioni che erano, sono uscite non sono corrette. Noi siamo stabili in Acea come partecipazione azionaria da diversi mesi. Sì, no, che ci siete dentro lo sappiamo, però sappiamo che eravate intorno al 10, avete accresciuto lievemente la partecipazione, no, un'informazione sbagliata. L'informazione non è corretta, okay, eravamo già prima all'11,5. Ok, benissimo. Allora, informazione scorretta, ne chiediamo scusa agli ascoltatori a lei. Mi sembra di capire che però se avete intenzione di espandervi, se avete intenzione di fare acquisizioni, no, non è con operazioni ostili comunque. No, sicuramente non è nello stile del gruppo GDSUS fare operazioni ostili, l'abbiamo ribadito anche stamattina, tutte le operazioni che abbiamo sempre fatto sono state fatte in maniera assolutamente amichevole. E l'idea di eventuali acquisizioni è, chiamiamola così, per arrotondamento o qualcosa di grosso, pensate? No, per arrotondamento, l'abbiamo detto stamattina, il nostro progetto è di crescere organicamente attraverso sviluppo che noi stessi siamo in grado di fare. Naturalmente io a questo punto, come è evidente, visto che lei è il rappresentante di un'azienda francese in Italia, vorrei anche capire come avete vissuto anche queste settimane, che sono state piuttosto complesse nei rapporti franco-italiani dal punto di vista finanziario, a partire dall'OPA di Lactalis, che peraltro è un vostro cliente, quindi qua in Italia, dico, la parte di Lactalis italiana. Insomma, come avete vissuto questo periodo e qual è la vostra posizione rispetto anche a le scelte fatte dal governo per limitare le scalate ostili, soprattutto evidentemente di parte francese? Ma guardi, noi siamo molto tranquilli, non abbiamo mai fatto scalate ostili, non intendiamo farne. Ripeto, il nostro sistema è sempre stato quello di crescere organicamente. In questo paese operiamo da diversi anni, direi da più di 10, siamo cresciuti molto perché comunque, anche se eravamo in joint venture con Acea o con l'attività che prima veniva da Gas de France, che operava direttamente, abbiamo sempre creato posti di lavoro, costruito impianti nuovi per la generazione, ho fatto repowering di impianti esistenti e quindi oggi noi crediamo di aver contribuito alla crescita stessa del paese Italia. Grazie dunque ad Aldo Chiarini, amministratore delegato, quindi GDF Suez Energia Italia, a questo punto e non Gas de France, lo diciamo e ci correggiamo anche in questo caso. Grazie per essere stato con noi e buonasera. Grazie a lei, buonasera, arrivederci. Adesso c'è la pausa per il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. I temi che affronteremo sono Mario Draghi verso la presidenza della BCE, la strada spianata per Mario Draghi, e cercheremo di capire perché è cambiata la posizione tedesca o se è sempre rimasta la stessa e si sono espressi solo ora. E poi parleremo di questa protesta fiscale a Cagliari, 10.000, forse 20.000 persone in piazza contro Equitalia. È 18 e 7 minuti, di nuovo buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia in diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, da dove tra l'altro tra poco vediamo già girare qua Giuseppe Cruciani, trasmetterà anche La Zanzara come molte trasmissioni di Radio 24. Allora, il tema che affrontiamo adesso, tra poco poi arriveremo perché ce lo chiedete, a questa strana protesta fiscale che si è verificata a Cagliari, dove migliaia, letteralmente migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro Equitalia, e sentiremo che la società che si occupa della riscossione delle tasse, ci collegheremo proprio con Equitalia e vedremo di capire da loro da cosa nascono le proteste di questi cittadini, e poi cercheremo anche di capire se sono in grado di dirci come, in quale modo si possa trovare una soluzione per facilitarli. Tra l'altro questo sarà il centro domani della puntata di 9 in punto, condotto domani da Deborah Rosciani, dove ci saranno anche i leader della protesta. Adesso, prima di passare all'argomento che affrontiamo tra un attimo, che è quello della candidatura di Mario Draghi alla Banca Centrale Europea, una candidatura che sembra avere la strada spianata, ci chiedete se sappiamo chi prende il posto di Draghi nella Banca d'Italia. Non lo sappiamo perché innanzitutto perché Draghi non ancora ha lasciato il suo posto nella Banca d'Italia, ma ci dovrà essere un voto del Consiglio Europeo che deciderà su questo, e lo stesso presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker ha detto: attenzione, c'è Draghi ma ci sono altri nomi. Eppure quelli che chiamiamo i grandi azionisti dell'Unione Europea sono concordi sostanzialmente, c'è stato il via libera di Sarkozy e ieri di Angela Merkel. Detto ciò, i papabili ci sono: Lorenzo Binismaghi, che è già nel direttivo della BCE, questi nomi che si sono fatti, che sono usciti oggi anche sul Sole 24 Ore, Vittorio Grilli, il direttore generale del Tesoro, e poi due interni, Fabrizio Saccomanni e Ignazio Visco. Comunque adesso parliamo proprio della svolta tedesca. Non sappiamo in realtà se possiamo effettivamente parlare di svolta o se possiamo parlare di rottura del silenzio da parte di Berlino. Lo chiediamo a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Beda, buonasera. Buonasera. Allora, di che cosa possiamo parlare? Di rottura del silenzio o di un qualche tipo di svolta maturata negli ultimi giorni? No, nessuna svolta direi, rottura del silenzio o chiarimento, perché per certi versi il governo federale non aveva mai in realtà preso posizione contro Draghi, non aveva mai preso posizione neanche a favore di Draghi. Gli ultimi mesi sono stati mesi in cui il governo federale è rimasto molto in silenzio ufficialmente su Draghi, ha lasciato molte voci e molte indiscrezioni essere pubblicate sui giornali, ma non ha mai veramente preso posizione. E due giorni fa in realtà la signora Merkel ha preso posizione in questo caso, lo ha fatto a modo suo, ma ha fatto capire che è pronta la Germania ad appoggiare il governatore della Banca d'Italia quando questi verrà presentato al prossimo Ecofin Eurogruppo a Bruxelles. Quindi sì, è per molti versi un chiarimento. Sì, tra l'altro quella che possiamo considerare la vera svolta, quella che abbiamo percepito tutti come la vera svolta per la nomina di Draghi, è arrivata esattamente dalla Germania, cioè quando l'ex presidente della Bundesbank Axel Weber annunciò che avrebbe rinunciato al rinnovo del suo mandato e quindi automaticamente alla possibile candidatura del dopo Trichet. E, tra l'altro ci si è esercitato sulla vicenda di Draghi anche un quotidiano popolare, però molto letto, Beda, che è la Bild, no? Che solo un anno fa lo chiamava il governatore del paese della vecchia lira, la moneta con tutti quei folli zero, che tutti noi ricordiamo benissimo, e mentre invece nel numero del 29 aprile gli ha messo in testa un elmetto prussiano. Sì, lì proprio c'è stata una svolta, perché un anno fa la Bild aveva fatto un lungo articolo, anche più recentemente, anche 6 mesi fa, la Bild aveva fatto lunghi articoli sui possibili candidati alla Banca Centrale Europea, alla presidenza della Banca Centrale Europea, e naturalmente parlando di Mario Draghi ne aveva parlato con un tono abbastanza spregiativo, anche se in realtà voleva essere un tono ironico e voleva fare intrattenimento. Poi bruscamente un paio di settimane fa Bild ha pubblicato un articolo molto elogiativo nei confronti di Mario Draghi, quindi c'è stata una svolta e probabilmente ha anche giocato nella reazione del governo tedesco, nella scelta del governo tedesco di uscire allo scoperto e di appoggiare il candidato italiano alla Banca Centrale Europea. Sì, tra l'altro c'è lo stesso ministro delle finanze tedesco, perché una volta aperti i cancelli hanno iniziato tutti, anche il ministro delle finanze tedesco ha fatto quello che potremmo definire un endorsement per Draghi proprio nella giornata di oggi, dopo che la settimana scorsa era stato costretto a smentire la ministra francese dell'economia, la Lagarde, che aveva detto: Schäuble mi ha detto che sono a favore di Draghi. Comunque sia, c'è qualche perplessità ancora da parte della Germania? Non mi riferisco in questo caso al governo, che evidentemente a questo punto è compatto nei suoi ruoli principali, ossia il ministro delle finanze e la cancelliera, perché abbiamo letto un'intervista piuttosto interessante al membro della Commissione Finanze del Bundestag oggi sulla stampa, che dice: va bene, ma insomma non sarà abbastanza duro sull'inflazione, è un falco soltanto a parole, nei fatti è una colomba. Insomma, c'è ancora qualche perplessità da parte tedesca, Beda? Ma sì, ci sono frange della società tedesca che continuano a rumoreggiare, ma sono solo frange in realtà, e fanno un po' di politica interna in realtà. Non mi sembra che ci sia all'interno della Germania, all'interno dell'establishment politico e economico della Germania, un'opposizione netta e formale nei confronti del governatore italiano. Mi sembra che il paese sia abbastanza compatto. Mi rendo conto che inevitabilmente ci possono essere uomini politici e magari altre personalità che ogni tanto rumoreggiano, ma credo che faccia parte un po' del gioco, e soprattutto non bisogna dimenticare che siamo in un anno elettorale, si vota in parecchie regioni del paese, e siccome la maggioranza in questo momento al potere, la maggioranza democristiana liberale, non solo è in difficoltà nei sondaggi ed è in calo di popolarità, ma sta subendo delle sconfitte sonanti e difficili in vari Länder tedeschi, beh, è un po' inevitabile che a destra e a sinistra ci siano così persone che rumoreggiano e che protestano, ma ho l'impressione che faccia parte della campagna elettorale. Allora, Beda Romano, io avrei un'altra domanda per te sulla quale ti chiederò di essere breve, ma prima abbiamo la viabilità, e la domanda è questa: visto che tu sei il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, quindi dal luogo della BCE, che cosa ci si attende nell'Eurotower dalla nomina di Draghi, insomma, posto che l'uomo frequenta l'Eurotower da parecchio tempo? Viabilità e poi ci risentiamo. In nuovo in diretta con Simone Spezia al Salone Internazionale del Libro di Torino. Chiudiamo la chiacchierata con Beda Romano chiedendogli brevemente che cosa ci si attende nell'Eurotower dal mandato di Draghi, se ci si attende qualcosa naturalmente. Ma credo che Draghi appartenga bene o male all'ortodossia della Banca Centrale. All'interno del Consiglio Direttivo non vi sono enormi differenze fra i vari membri e fra i vari governatori nazionali, quindi credo che Draghi continuerà sulla falsa riga di Jean-Claude Trichet per molti aspetti, per quanto riguarda la politica monetaria e per quanto riguarda il rapporto della banca con i vari governi nazionali. Credo però che Mario Draghi assumerà la presidenza della BCE in un momento molto delicato. È un momento delicato per l'assetto dell'Unione monetaria ed è un momento delicato per il fatto che la banca potrebbe trovarsi a dover gestire due obiettivi non sempre coincidenti, la stabilità dei prezzi da una parte e la stabilità finanziaria dall'altra. Questa mi sembra la grande sfida che dovrà affrontare Mario Draghi nei prossimi anni, cercare di risolvere questa eventuale contraddizione fra questi due obiettivi in un momento peraltro dove assistiamo molto spesso a delle spinte nazionalistiche all'interno della zona euro. Grazie dunque a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, buonasera. Arrivederci. Ci siamo, finalmente parliamo di fisco adesso e quindi torniamo più strettamente all'Italia. Perché? Perché oggi ci sono state proteste, come vi dicevamo, da parte dei contribuenti. Già ci scrivete su Equitalia, dite sono degli strozzini di Stato, ne parlate come se quei poveri avessero delle colpe, ma allora già l'espressione strozzini di Stato è in sé assai discutibile, non ne parliamo come se fossero dei poveracci, insomma. Allora, 10.000 persone in piazza a Cagliari per protestare proprio contro quelle che giudicano delle vessazioni fiscali sostanzialmente. Che cosa è successo? Che Equitalia ha iniziato ad incrociare i dati, insomma, e ha iniziato a riscuotere con maggiore durezza, se vogliamo. Comunque, chiediamo maggiori dettagli ad Angelo Coco, che è direttore centrale servizi enti e contribuenti del gruppo Equitalia. Buonasera Coco. Buonasera. Allora, ci spiega che cosa è successo a Cagliari, ma immagino che sia un problema diffuso che poi è esploso e si è manifestato in questo modo in Sardegna. Penso che il problema che in questi giorni sta toccando in maniera così evidente la Sardegna problema che covava da tempo e che abbiamo riscontrato anche in maniera diversa in altre realtà italiane. Ricordo per esempio quello che è accaduto, diciamo, a Singhiozzo nell'area della Puglia e della Basilicata per quanto riguarda il mondo dell'agricoltura, e ricordo anche quello che è successo in Piemonte nell'area del Torinese in particolar modo, con le piccole e medie imprese che hanno sofferto in maniera molto evidente della crisi dell'auto e del periodo di grande riconversione che il Piemonte ha vissuto in questi anni. Sì. Ora, allora, ma che cosa è successo? Cioè, voi che cosa avete fatto per scatenare tutto questo? Sarebbe semplicistico dire che abbiamo fatto essenzialmente il nostro lavoro. Qualche giorno fa in un articolo proprio di un quotidiano sardo, un politico sardo diceva questa frase: una delle poche cose efficienti di questo paese è Equitalia. In altre parole, mentre lo Stato è lento, non si occupa delle aziende, non paga i debiti, il suo settore procede come una macchina da guerra. Ora non è propriamente così. Equitalia nasce nel 2006 ereditando il vecchio sistema della riscossione che era affidato in precedenza al sistema privato. per sì. nascere Equitalia ricondotta in avvio però, pubblico. Però mi scusi Coco, io vorrei ricondurla al punto perché poi abbiamo dei tempi radiofonici. Certo. Ci spiega che cosa è successo e perché questa gente a Cagliari è scesa in piazza contro di voi? Perché evidentemente c'è un debito fiscale e previdenziale molto alto che gli enti impositori ci stanno chiedendo di recuperare e noi, secondo norma, facciamo le procedure, attiviamo quello che la norma prevede per recuperare il dovuto agli enti impositori. Questo è il problema, mi scusi, da quel che ho capito, scusi la brutalità, è che arriva tutto in una botta, no? Non è proprio così. Non arriva tutto in una botta, esiste un pregresso che evidentemente non è stato saldato da chi doveva e col tempo scattano anche dei meccanismi sanzionatori che penalizzano ovviamente chi deve pagare. E l'accumulare di questi debiti affiancato da una situazione economica sicuramente negativa ha peggiorato in maniera evidente una situazione di per sé già molto delicata. Coco, quello che le voglio chiedere è che non era il caso, per carità, allora stiamo parlando chiaramente di quelli che possiamo definire come contribuenti infedeli e come ben sapete da questi microfoni in questa trasmissione e non solo, non siamo mai teneri con quelli che definiamo contribuenti infedeli o evasori, insomma mettetela come volete, però la questione è sempre quella, visto che c'è la crisi e ancora molte imprese sono investite da questa crisi, non era il caso di andarci lievemente più morbidi? Ripeto quello che ho detto prima, purtroppo la nostra attività è regolata per legge, modificare modalità e tempi significa modificare le norme che regolano questa attività. Ora noi utilizziamo per quel poco che ci è possibile, consentito della flessibilità, utilizziamo tutti quegli strumenti che il Parlamento ha anche messo a disposizione dei contribuenti per rientrare in quella che diciamo… Cioè voi non avete margini di azione, Coco? Da questo punto di vista, cioè se c'è chiaramente una sofferenza, c'è gente che non è in grado di pagare e che vi dice ragazzi qua chiudo l'azienda, non ce la faccio, come posso fare? Ci sono degli strumenti, ripeto, normativi che possono aiutare i contribuenti a riavvicinarsi alla legalità fiscale. Ricordo che in Italia con la rateizzazione 1.200.000 contribuenti ha avviato un percorso di saldo del debito che va nei confronti dello Stato con un minimo di 100 euro fino a 72 rate e lo ha fatto per 15 miliardi di euro. Ora questo meccanismo, che ha tenuto conto anche delle difficoltà che la crisi economica ha portato ai contribuenti, quindi molti di loro non hanno potuto tener fede a quegli impegni, sono potuti rientrare in una ulteriore azione di rateazione per altre 72 rate. Allora, abbiamo solo un minuto, Coco. Le chiedo, la sintesi di quello che voi dite è: questa gente non era abituata ad essere controllata, non era abituata a ricevere un'imposizione, a ricevere l'imposizione in questo modo, a vedersi una richiesta di riscossione di questo tipo ed è per questo che protesta, cioè si è rotta un'abitudine. No, così è secca la risposta. Sì, ho capito, però alla fine dobbiamo pur riassumere. Sì, per riassumere diciamo che la situazione di disattenzione fiscale sull'obbedienza fiscale precedente aggiunta alla situazione economica non felice ha determinato questa situazione. Ora per intervenire Equitalia può fare ben poco. Dal punto di vista operativo. C'è bisogno sicuramente di un intervento. Esatto, un intervento legislativo. Allora è chiarissimo, che grazie. Noi applicheremo alla lettera. Alla lettera, naturalmente, perché è il vostro dovere, come di tutti noi. Angelo Coco, direttore centrale Servizi Enti e Contribuenti del gruppo Equitalia, buonasera e grazie per essere stato con noi. Buonasera. Grazie a lei, arrivederci. Finisce qua anche questa puntata di Focus Economia in diretta al Salone Internazionale del Libro di Torino. Domani torna Sebastiano Barisoni. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Roberto Scaltritti in regia qua a Torino e Valeria Bernardi a Roma, a Milano, scusate, anche se è di Roma. Un grazie anche a Luca Buratto, Davide Cioce e Fabrizio Guidi che hanno consentito la messa in onda qua dal Salone di Torino. Ed è buonasera. Radio 24. La passione si sente.